Italia. Ho ascoltato, ti ho detto, sono stati lì per gli spagnoli e ti ho ascoltato. Certo, sentivano un bel pezzo, eh. Ma adesso un basso di fatto. Adesso lo mettiamo, là. Thank you. sentito, salutone. Ciao avanti Mauro. Ciao Gianni, ben sentito, salutoni anche da questa parte. Tanto stai a discutere con i vecchi e non avvenisci mezzo giornato.